se è modulato qualcosa lì. No, no, è il modulatore di questa radio, vecchissimo, sto usando un Concert 25B, che voleva sentire Mondino, adesso ho chiuso, ho tolto il bip della saletta, ho tolto. Come modulazione com'è, a parte quella, quel rumorino che senti sotto? Sì, no, è bello potente, è squillante. Rispetto a quello che dice Mondino, io dico esattamente il contrario, più predominante di tonalità basse che acute, comunque è buona, sufficientemente buona, non è eccellente, prima ti ascoltavo meglio con le cose, le dosi anche la cosa che avevi prima, il 50-24, quello lì era. Ehi, aspetta che le cambio, Ciao Giuseppe, buonasera anche a te. E io come ti sto arrivando? Oh, adesso ho attaccato il Zodiac 50-24 voltane più 3. No, questo è migliore, come modulazione è più presente, più presente, diciamo più naturale rispetto all'altra. L'altra purtroppo c'è quell'effetto a 400 Hz, c'è questa specie, si sente tipo una cosa, tipo un trapanino, una cosa girando i gusci sotto. Magari vorrebbe sistemata, ma futtisini, dai, intanto farla camminare, questa è molto meglio. E basta, va benissimo. Beh, quella lì a valvole non è che possiamo fare miracoli, è importante che funzionino. Però ti dico, gli abbinamenti che ho fatto sono eccezionali, soprattutto qua col 50-24 e con l'Inuit, sempre base, e l'HB23, questo Turner è uno spettacolo, beh. No, già sta andando bene, una bella modulazione, non c'è niente da dire. Tra l'altro, come si chiama il Consat? L'ho sentito nominare, però non ce l'ho presente. Aspetta, andate su internet a guardare come è fatto. È un base, anziché essere lungo e alto, un po' stretto, però molto, molto compatto. Molto compatto, e il Consat 25B lo faceva Lafayette, poi c'è il 35B. Adesso sto tentando, me ne vorrei una risposta, intanto me ne vorrei con Luigi. Perché da Cagliari sto portando altre radio di uno che se ne sta disfando. Purtroppo per qualcuno di Sassari sono riuscito a recuperare il Simba, una cosa spettacolare, una radio che non ce n'è per nessuno, che lei già pronto il suo microfono, l'altro tarde perché ne ho due. Oppure il Sadelta, oppure l'SBE, oppure il 3x2, vediamo qual è l'abbinamento migliore da fare. Ma mi ha mandato le foto su internet, eccezionale, una radio che è uno spettacolo. Guarda, il Simba è grande, quanto è 940 o robè? Addirittura, no, cosa fa? La fai che sempre? Non me la ricordo se che casa lo facesse, non so se della Persipson, non me lo ricordo, me lo commentare, mi ricordo solo Simba, quando lui mi ha detto guarda, di radio ne ho quattro, tutte e quattro basi, una ce l'ho già ma non me ne frega niente, me la prendo, però quando mi ha detto Simba, ho detto guarda, affare fatto, mandami tutto e via, allora mi sto mettendo d'accordo con uno che scaricare lì vicino, ho già sistemato la parte economica, mi ha detto che settimana me li portava giù, ma è nuovo, sono delle radio eccezionali, nuovissime, non sono di ultima generazione, sono del Simba, c'ha canali a UFA, c'ha le bande laterali, c'ha UFO esterno, c'ha un mare di cose, è troppo bella quella radio, te la faccio vedere Roberto. Poi l'altro c'è un summer camp sempre da base, tutto in legno, un altro Inuit che me lo prendo lo stesso, e l'altro invece è un Persipson base, un Persipson, e così dai, mi riprendo, mi piaceva troppo, sono veramente incasinato con queste radio così, mi piaceva troppo. Sto cercando Daniele, se lo trovo, non ho il numero di telefono perché sta dicendo di Daniele. Ehi, ehi, lo lasci. Domani glielo lasci, l'ho già chiesto io. Quello sì che è bello, quello è spettacolare. Lo meno me la comprare una radio di quelle vecchie, diciamo, adesso ho finito, io ho il Ruiz e il Pace di quelli vecchi vecchi, diciamo, come baracchini. Però quello DAC è troppo bello perché è enorme, è bellissimo. Infatti mi serve quello lì per coprire e terminare l'angolo della cuccagna, capito? Proprio delle basi e dei baracchini base. No, ma già lo trovo io. Guarda, io sono uno di quei pochi che quando dice che devo trovare una radio la trovo, non ti preoccupare. Già la trovo. La trovo e a parte il fatto che il 21 vado alla fiera, quindi non c'è problema, ci sono che sono in fiera, siamo già contattati via mail perché è un radioamatore e tra l'altro c'ha un sacco di baracchini antichi, di radio antiche, eccetera. L'ho detto di mandarmi delle foto, arrivo, delle foto, delle cose, mi ha detto no, quando vieni qua le vedi di persona, quello che ti piace ti porti via. No, lo so, lì già si trovano le cose. Chiedi solo a livello di curiosità, quello che ti avevo chiesto io, per le U base della linea che ho io, là. Quella ce l'avevo. 711-811 della Kenwood, i due gemellini base, io li ho dati per prendere la categoria superiore che sono quelli della ICOM, e quelli sono a 25 watt, mentre il 275 e il 475H della ICOM sono a 100 watt, e quindi ho dato quelli e ho preso l'ICOM, tutto lì. Ok, dai, vado a cenare, Robe, non so se hai già cenato, io vi saluto, se ci siete riprendiamo dopo, e niente, quindi lascio questo baracco qua acceso, così si sente ancora la tua immagine di quando scalda, perché non è che scaldi molto, però è a 220, e si sente l'odore del lucido del trasformatore, no? Di quella pattina che mettono al trasformatore di quanto è nuovo. Ok, vabbè, buona carica, io tengo un po' acceso, sono anche qua con il computer. Avanti Giuseppe, vediamo se c'è ancora un'altra macchina. Avanti Giuseppe per Claudio. Vabbè, io tengo un po' acceso, se c'è anche qualcuno. Nel frattempo, buona carica, perché io ho già mangiato, diciamo, roba veloce, ma già basta per stanotte. Ok, faccio una chiamata sul 10, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, se no tengo in accensione la parata. Avanti chi vuole entrare sul 10. Ci sentiamo dopo, Robè. Ciao Giuseppe, ci sentiamo dopo. Ci sentiamo dopo e vado a cenare. Ciao ciao. Ciao, fa dopo. Dove te la trovi? Compagnia di Giuseppe, di Antonio Bombo, c'era anche Luca ma poi è scomparso. Avanti per chi vuoi. Sono qua già, aspetta un attimo, faccio una cosettina e arrivo. Ciao Giuseppe, avanti. Sì. Giuseppe, avanti l'altro Giuseppe. Riprendo io, ho ben sentito Leoncino, se mi vai copiando, e da questa parte Giuseppe K. Arizona Sacro Cuore. Positivo, positivo. Siamo anche in compagnia dell'amico Bombolino e te lo mando subito avanti. Ciao Luigi. E allora? Tutto bene, tutto bene. Giuseppe. Sì, vieni avanti, avanti. Ti posso fare una chiamata? K, aspetta che accendo il telefono. Ma K, dai, sto chiamando. Allora cosa mi racconti? Qualcosa è concluso con la storia là? E come ci è rimesso la clamp? In che senso? No, io ho capito, ci ho rimesso nel senso che l'avevi rotta. Non stavi uscendo bene abbastanza. E tu con questa rotta come mi ascolti, Giuseppe? Calala. Va bene, va bene. Ucrizia. Pappasà. Allora. Oh, una gestiana, c'ho i piedi di ghiaccio, la tua attaccata, c'ho i piedi, sono dei ghiaccioli. Paga, è la stufetta, non te la c'è. Sì, è attaccata alla stufa e ci sono due ghiacci oltre. Oggi hai visto la antenna 1, Anto? C'era uno dalla zona vostra, sono mancanti che si vedono entrare con la benzina tutta suonata. Yeah. E ci sono due, tutti e due, lui parla con la voce da donna. L'hanno intervistato perché dice che c'è tutta l'acqua che gli entra in casa, che hanno saltato casa sua, hanno fatto le altre case, casa sua dice che se ne sono dimenticati di farla, che c'è tutto pieno di umidità, che sta sempre asciugando con lo straccio, pieno di gandaralli, di suri. Non so chi è questo qua, chi può essere? Sì, ce lo conosci, sicuramente l'hai visto mille volte, prende sempre il tram. Metta lì alle case del canale. Mattoni. Eh? Mattoni. Mattoni. Mattoni. Mattoni. Come la luce fa metà? Ehi. E mi chiamo Mattoni. E quello lì che si è sposato con quella ragazza che pare mi sia mancato. Ah, non ti ho visto. Se ne ha uno. Ma dove? In che zona? Vicino a casa tua. Via, come ho detto, non me lo ricordo. Comunque è una di quelle vie anglona. Aspetta un attimo, Giuseppe, è finito il credito. Kappa, vai tranquillo, Bomboli. Vedi, scusate l'intrusione. E vedi un pochino adesso, Bomboli. Ma sta a posto, sta a posto. Positivo. Riprendi Luca, chiedo scusa, Kappa. Ma prego un attimo che va a ciambare la bomba, sennò va preso. Via tranquillo, via Anglona. Via Anglona, sì. Come ti va a entrare la casa su che non ci ho compreso? Ma tu discesa, ma è che è tutto acqua. Ha detto che entra leva, che è pieno di zurichi, di cadarani, nessuno ci pensa loro. C'è che fanno le case vicino e poi saltano a loro. E continuano. Non lo so. Sembra un po' strano. Sì, vabbè, tu fisco la paghi, sì, ma acqua no. Ha detto che sta sempre asciugando acqua, che entra col denso, buco, senso, dalle finestre. Ma è tutto macco, visto? Ma tu visto, macco, sì, lo chiamano sempre al comune, lo sai, accusa che è macco, a me non è macco, visto, ma è macco all'altro. Cappa, io danno anche la pensione, mi pare. Sì, pensionato, anche lei pensionata. Ma io tutti e due sono nato. Ho fatto una nuova pietra anche. Dove è tutto, ma è dolciato. Ma parla così. Ho fatto una nuova pietra anche. Capito. Se ci avevo scultore, se l'ho venduto. Non è mai, non ti preoccupare. Cappa. Giuseppe. Eccolo. La riprenda. Oh. Questo Bianglona, se non sbaglio, non è dalle parti nostre. Sono vicino a me, Giuseppe, una casettina mia, va, dietro però. Kappa, mi suonava familiare come via quella. Sì, Giuseppe, qua dietro. Ma lì su, capito, su Addu. Però fazi macco all'asse, compreso. Non è scemo già, non pensavo che sia macco. Vabbè, non è sano, perché non è sano. Però già è un bel furbo. No, non è macco. Già lo sanno, lo atto giù. Già devi essere macchi con plumosi, questo è già, ma è sassarese. Dai, via. Tanto di muso. No Gianni, è andato a cambiare la bombola, forse della stufa, così ho capito. Via. Chiaro, eccomi qua. Fantù. E allora? C'è pure Pirino, oggi si sta allargando la ruota, meno male. Positivo il capo di Rogero. Buonasera a tutti, scambio. Buonasera Pela e ben sentito, K di Rosmetro. Ascoltate a voi. K in compagnia del buon doppio room e del buon Luca e non so se ci sia ancora in frequenza Leoncino. Avanti per chi vuoi. dai, un saluto che qua è tutto. Leoncino c'è, avanti Leoncino. Passerà lì. Ehi, questo è bene. Per fortuna sì. Buonasera Pierino. Buonasera anche a lì. Non so va. Male, male. Dai, sei un po' più ottimista. Male, male, male, male, male, molto male. Ti malissimo. Siamo tutti qui. Io direi c'è un po' di gente. Avanti, Leos. Purtroppo questa settimana pure così. Mamma mia. Sorry, va, vedendo io. Sta ancora piovendo. E penso proprio di sì. Dierpa, e oggi com'è andata? Com'è andata cosa? Eva. Una rottura di scatola. KK, oh cavolo, oggi ha picchiato comunque. Lo so, non abbiamo avuto tregua noi, KK. Casino lavorare così. E poi soprattutto quando lavori in strada così e cade, è tragica proprio, è tragica veramente. Carità. Penso con qualche cosa io. Mi fuso pure le mutande un po' di gusto. Cappa di così tipo. Sì, vai così. Perlomeno noi che facciamo quel tipo di lavoro siamo soggetti a prendere delle belle sbaldinate d'acqua. Allora, perché siamo all'aperto, quello è. Sì, tipo. Quanti bombolo. Cappa. Si è mezzo combigliato un poco, dai, Baia. Bisognerebbe organizzarsi con qualche cosa, qualche mantellina, qualche cosa, solo che lavori male. Questo organismo, ovvi. Allora, l'unica organizzazione che fai è che deve alzare i tacchi. Io se voglio ti puoi organizzare. Io ho comprato questi pantaloni che sono imbottiti dentro e fuori sono antiacqua, sono tipo kiwi, così li metto per pescare, li metto in moto, non passa un filo d'aria. Se piove non ti bagni, ti metti in quello, un paio di scarpe grosse, un giubbotto di quelli impermeabili. Scarpe grosse ce li ho, no, c'ho anche i pantaloni buoni. Lo so. Solo che più sei vestito così e più ti lega, lavorando si sa come. Chiappa. Io so cos'è, la magliettina è bella. Non ho altro, è il giubbotto. E magari mettete uno tipo kiwi così, liquido impermeabile, ti ripara un po'. Però dall'acqua, non dal freddo, ma dall'acqua. Luca. Ma si è perso e non sa tornare. Oppure? No, negativo. Sì, abbarco. Magari di mattina, non lo so. Sarà reattivizzato. Ma se non lo hanno. Casino, poi per il pretendo che la gente paghi. Le mandano queste. Come hanno fatto con Luca, con la luce, stanno facendo con te con l'acqua. E magari se non li mandi le letture del contattore, loro fanno così, fanno forfettariamente. Poi infatti lo fanno forfettare, ti posso prendere di più o di meno, capito? È quello un ippo. Sì, giusto un'informazione, ma l'amico Leoncino da dove sta modulando? L'amico Leoncino modula da Montefurro. Montefurro, perché io sto cominciando a perderlo pian pianino, non so che stia succedendo. Sì, ti sento molto più basso di poco fa. Io qua Giuseppe sono un tiro di schioppo, quindi non posso vedere la differenza. Sono proprio vicino. Ho problemi ad ascoltarti ancora, cioè. Per me va bene ancora. Poi lo sentite, lo riuscite a copiarlo bene. Va. Papà Giuseppe. Ma forse sono io l'unico handicapation che ha difficoltà in questo momento. Poco fa meglio, adesso lo sento molto lontano. A volte succede anche a me che succede. a volte si abbassa. Aspetta che ho cambiato apparecchio, come va questo? Questo qui sta arrivando una schioppettata. Positivo il capo del rocchio, Leoncino mi ascolti, ho questo, mi ha detto non riuscivo ad ascoltarmi, no, è K di Rosmetro, 9 più 30 qua, K. Ciao, 9, allora dai. Sì, va bene, la radio è Super 5, è bella pulita. Bella cava, va bene. Sento un qualcosina lì comunque. Dove, qui? Mi sembra cambiata la voce, ma la cosa mi sembra un'altra. KK, sì, ne sto provando un altro. Non è lui perché ancora non me l'hanno rispedito indietro, Pierpa. KK, la giravina. E niente, adesso proviamo questo, dopodiché vediamo un po'. Perché tanto quello là, Pierpa, converrà a farlo aggiustare qua. Scusate, no, già, non sono andato a porta. Cava, se la riprenda. Ma Luca c'è sempre, Luca. No, avanti Gianni. Ehi, Giuseppe. Problem, no problem. Benissimo. Credo. Positivo è K di Rosmetro. Se la riprenda il Leoncino, da Montefurro. Grazie del Signore. Oh, yeah. Comunque, no, io rimango qua in ascolto, dai, ripeti tu, Gianni. Oh, Gianni, aspetta. Ecco, adesso il Leoncino ha tirato sul periscopio, E deve essere tra le pile. Cappa, adesso anche lui sta arrivando qui, eh. Oh, scusate che mi è arrivato gente, se ci siete d'accordo, però, poi. Via, va bene, ciao per faccia, buon credito. Tu anche non rimane. Sono qua, dai. Cappa, va bene. Che dire? Comunque, Giuseppe, arrivi benissimo qua. Vedete, c'è Royana di noi, no? Aspettate che vi siete castigati con Leoncino. Avanti, Leoncino. Guarda come ci arrivo, 1, 2, 3. Sì, adesso va bene, adesso sei 9 più 10 qua, prima eri, avevi un 6 e mezzo di Santiago, adesso stai arrivando bene di segnale e di radio. Camma, dai. Io non mi sono mai spostato da nessuna parte, sono sempre qua. O come gira il vento, questa antenna che non sa già ne com'è. Dipende come gira il vento qua. Kappa, no, come in radio adesso sì, comprensibilissimo. Poco fa facevo, ti dico la verità, fatica a tirarti fuori. Adesso guarda, ho dovuto abbassare anche un tantino il volume perché stai arrivando benissimo. Kappa, sì, va bene. Gianni, sì. Io ci sono. Io come sto arrivando, Antonio? Da casa mia, a fondo scala. Il radio, bene, ne sta arrivando. Una bomba. Va bene. Volevo provare anche l'altro, ma adesso è troppo tardi, adesso proviamo un altro momento. Volevo provare il Milan. Già, non c'è problema. Ma c'è... è troppo tardi da per provarlo, facciamo un altro giorno. Paga. E ho provato a mettere il DM1000, invece non ci va bene. Non ci va bene. Praticamente esce troppo forte e distorce. Basta abbassare un po' il key gain. Facciamo una portata al 10, 9 al 40. Beh, avvicinate. Miseria. Se per la solita, c'è anche un altro giorno, io non ascolto, l'ho sentita. Che cazzo, ma non si può anche intervenire subito la portante, ma io lo dico, questo è un bambino subibicato con le portante. Lo so, purtroppo c'è gente, uno se non li fa, non ci deve entrare e basta, cosa c'entra, mette la portante. Io quando non mi va di entrare in un canale non c'entro, a volte faccio ascolto ma non c'entro, però queste cose non le faccio, non mi, da, mi danno fastidio anche a me. Giuseppe che fine ha fatto, non c'è più, come tu non c'è più basta. No, c'è anche Giuseppe. Ma eccomi qua Luca. Ma Giuseppe, allora, tutto a posto, non c'è più, più sentito, come mai? Olu, non è che stavo entrando più di tanto perché giù al lavoro ci stavano sfiancando, ti dico la verità, e non avevo manco gana non solo di vedere la radio ma manco di vedere a me, credimi. Ecco, vabbè, là. Prima da fare quel piacere di dire Guido. Anche se ricollegandomi al discorso di poco fa, io l'ho detto da quando ho iniziato a modulare e lo confermo adesso che secondo me non c'è cosa di più vile, di più vigliacco che mettere una portante, e qui chiudo il discorso. Sì, ma infatti io gli ho detto queste parole, stronzo, insomma, gli ho detto, questo non mi ricordo. Quella di mettere la porta che ne sono attaccati. Tra l'altro roba che sono attaccati, non li può passare nessuno. Nessuno, a meno che avevano stoccato di loro, ma sì, se non li passa nessuno. Comunque, vabbè, non ne sbatte niente, non devono stare di qua. Ma baracchino non me ne è proprio scesa la voglia, non più me l'ho proprio accanito. Accanito, io non lo sa, ma lo sai benissimo tu. Adesso l'ha detto, ma non ci trovo più gusto, non attira più. Però l'ha detto, non attira più. Perché ho Luca? Perché per colpa di qualche imbecille ne passa la voglia, perché cosa credi, anche a me ne è passata la fantasia, io ero da un bel po' adesso senza entrare, anche per quel motivo lì, cioè se si entra si deve stare tutti in allegria, cioè entri per passarsi una, due ore o quanto cavolo rimani in allegria, in amicizia soprattutto, se per cavarsene gli occhi sta bene spento l'apparecchio. Te confermo, è vero, sì, ma io diciamo che vabbè, se poi senza la portante, no? Se no è abbasso il volume, lascio parlare chi riesce a parlare, tipo già neanche tu non riescono a parlare, per dire, no? O magari con Pierpaolo, o con te, a me mi ha fastidio, no? Più forte di me, non devo stare lì a dire di parolacce, mi incazzo, io so come sono fatto, allora preferisco abbassare il volume e se la prendo in quel posto. Io faccio come ho fatto l'ultima volta, ho spento il baracchino e l'ho riacceso dopo due mesi. E sta con tutto, ora ci ho fatto 10 anni, io di nuovo. Sì, anche perché io dico questo, non ti va di coso di ascoltare, ce ne sono tanti di canali, ti accendi la televisione, ti accendi la radio, fai quello che vuoi, ma che gusto c'è di andare a disturbare delle persone che stanno facendo un QSO in tutta tranquillità, poi senza essere volgari né niente, poi, credimi, e non riesco a capire il coso dell'apportante, cioè perché mai mi sono permesso e mai uscirà perlomeno da casa mia un colpo di portante, perché ti ripeto, massimo rispetto per tutti e mi fa piacere soprattutto quando il rispetto lo danno anche a me, però a quanto pare non funziona così e pazienza. Dico una cosa, che queste cose sono sempre esistite, purtroppo c'è sempre l'imbecille, c'è sempre. Però bisogna anche lottare su queste cose, perché se non si lotta non si va avanti. Arturo, ci sono quasi 20 anni io al baracchino, non sono 2 giorni, perciò non ho visto, non ho sentito che più ne ha più una retta, così tutto tutto, 20 anni quasi vi sono. Io ti dico solo una cosa Luca, ti dico. Se avessi avuto durante un'altra cabezzura, a me la portante non me l'avrebbe messa nessuno, perché sono capace di attaccarmi le batte, a me non me l'ha fatta nulla, sono fatta quella maniera lì. Vabbè, aspetta che mi ha fatto appiccare a Luigi Ballassi, ma figlia, ma prima che non l'avrei mai fatto, non lo siamo in affutti, non l'avrei mai fatto, ma ti poi devo aspettare Luigi, aspetta Luigi, Luigi, aspetta Luigi, figurati con 1000 o 500, ma neanche, perché guarda, neanche a pensarci, assolutamente, non fare una cosa del genere, non me ne affuttiamo più nulla, ma pure la bottante, ma pure la bottante, poi se tu ci hai fatto Luigi, vuoi aspettare Luigi, aspetta Luigi, è in vano. Infatti è meglio chiudere, cazzo, almeno non specchio, ce n'è in una maniera o nell'altra. Ma tanto la può bucare Luzi, già. È una cosa allucinante, no, lascia perdere qua. Io prima mi incazzavo comunque Giuseppe, ma mi incazzavo un po', perché cioè io dico pago, anche se pago 12 euro all'anno, non ne ha futti nuda, niente. Allora io dico pago, ho il diritto di parlare, se mi metto la portante. Oppure c'è con Giuseppe e te la prendi con tutti. E c'è con Giuseppe, vai glielo dici, ho telefoni, ti incontri, Giuseppe, guarda, così e così. Oppure c'è la con Gianni, faccio un esempio, o con Antonio, fai le rompire le discutette, ma non è stato bravo, cosa stai lì a mettere la portante? Ma che cosa? Disturbare gli altri? Dico una cosa Luca, che quelle lì allora, questa gente qua, bisogna avere pazienza, perché poi alla fine ci fregano da soli. Voi, ma lo sapete cosa vi dico, ma pensiamo alla salute, a continuare a farci il nostro discorsetto tranquilli, che c'è un bel calduccio a casa da voi, facciano come vogliono gli altri, guarda, non me ne può fregare di meno, tanto o Luca, ho cenato lo stesso, stiamo discutendo lo stesso, preghiamoci la salute. Sì, ma ci mancherebbe Giuseppe, ma non c'è problema per quello, quello è contro la salute, poi questi qua arrivano dopo, sono giocattoli, perciò però vengono come giocattoli, avanti già nei temi, va, però il discorso che poi qua diventa una cosa molto, molto, più si guarda la Sardegna. Poi tu cosa hai promesso? Di non incazzarti più, quindi non ti incazzare, tranquillizziamo tutto, rilassatevi, poi il rilassamento totale, ci siamo. Voglio dire solo una cosa Luca, per fartelo capire in parole povere, due giustificati, ho capito chi sono, vuole avere pazienza, l'altro, cioè, lo sto già mezzo pensando, lo so, perché è già successo un'altra volta, quindi uno se uno ragiona con la testa, lo capisce chi è, e poi quel segnale, adesso un po' di tempo che non sta più uscendo e sta rispiendo tono, io l'ho già compreso me, perché non sono uno stupido, qua mi arriva bomba. Comunque a me non sto lì a cercare loro, perché non me la sbatte, intanto, non me la futti, non mi interessa proprio, ma ti portate, mi giubare, io te lo spengo. Ma sai che cos'è il brutto? Il brutto è che uno può pensare che sia un altro, magari arriva con stesso segnale cosa, e fa incolpare magari un'altra persona che non c'entra nulla. Ma io ho osservato da tanto tempo e ho mezzo capito chi è, dai. Ora bisogna farsi una ragione. Purtroppo non è altro con che cosa giocare se gioca così. Vabbè, lui ci scivola tutto addosso, non c'è problema, avanti Giuseppe. Tanto per rimanere in tema di portante, che tempo ha messo domani? Sapete niente? Beh, ma mi sa che tutta la settimana Giuse ci accompagnerà più. Ah sì? Quindi loro abboccano alla grande con la pioggia. Cappa. Andiamo bene. Poi Giuse che ci stanno aspettando ancora, stanno crescendo. Adesso devo aspettare la risposta dalle sfere alte o dalle alte sfere, perché a quanto pare periodo natalizio dovremmo avere a disposizione 15 giorni. Avvio. Cappa. Ma io sono incasinato quel periodo lì, per me è triste. Non fa niente, quando passi vuol dire che ti saluto. Cazzo gli ha passato però, no? Se ti butta in mare ti butta. Cazzo un colpo di furgone a retromarcia. Cappagatto. Col periodo lì un po'. Sarà molto lontano e quando rientro troverò già dal 5 si comincia a trottare. Ah, va bene, approfittane adesso a riposarti, approfittane adesso a guardare noi mentre sgobbiamo già. Sì, Giuseppe, diciamo che sul fatto di non dover lavorare quando posso sdraiare quando voglio, fare la vita al bento poco, insomma. Ancora meglio è quando ci daranno questi due soldi di pensione. Finalmente potremo dire, oggi non posso nulla. Bisogna vedere se ci arriviamo. E piano piano già arriviamo anche a quella già. A te quante lettere le manca? Gira ancora una decina. Allora andiamo insieme. Cappasa. Che io 10. Sono 30 anni io che lavoro. Cappa, e a te lui? Cosa cominciare? Io ancora non si sa. A te bomboli, quante bombole ti mancano per andare in pensione? Me ne mancheranno altri 20 anni, penso, altri 30. Già passano anche quelli, mamma mia. Vabbè, come tutti se ti passa. Non credo che passa, non passi a eso. Meglio che passi, io dico sempre questo, meglio che passi, lasciatelo passare piano piano, ma l'importante è che passi. Vediamo bene. Che fa la tassina, già? Quello che fa la tassina con Giuseppe. Ma è passato un anno. Qua sono le due, sono uguali i segnali. Come lui, non ho capito. Quello che fa la passione con Giuseppe, e siete uguali di segnare, cioè con Giuseppe, con Gianni, scusa, non si è capito niente da parte mia. Qua Gianni che l'ha fatto insieme. Che cazzo, e tu, vieni di fronte, vieni, avanti Giuseppe. Cappa, stavamo parlando di età pensionabili, o lui, con Gianni. Quanto me ne manca a me? 50 anni me ne manca. Non è buona, è uscire. Mamma mia, tanto cosa credi che a noi che stiamo lavorando ce ne diano di pensione, ma manco per sogno. Oh, lo ti danno questi vecchiai. Io sono venuto a arrivare più a me che a voi. Eia, è così. A te ti danno quella di vecchiaia. Mi si va arrivo a vecchiaia già. Sì, do una vola. Sai, la vita adesso non puoi fare che progetti, perciò non è che puoi fare, pulire e fare nulla, no, quindi vai la giornata, ogni giorno, non puoi subire, guarda che al prossimo anno, tra due anni mi compro la macchina nuova, no, non posso mai dire, mai. Quello è vero, Questa malattia del cavolo, guarda che è uno schifo, poi sa cos'è? Che fanno la ricerca, vogliono soldi, la ricerca no, avete sotto muore cribbendi di camaradia, malattia maledetta, che poi non la faccia nessuno, non perdona nessuno. Quando di lei ti si bravati di me, è così. Lo so. Solo che ne comprini una decinata, è un fatichissimo. Adesso prendi l'infarto. La gente che sta guardando l'infarto è una cosa impressionante, che poi non è nessun balle, non dico una persona grassa o magra, anche i magri viene l'infarto, perciò dicono solo cazzate. Non è questione di grasso o magro, è questione di fuma, di chi fa una vita stressante, le arterie che si otturano fumando e mangiando roba grassa. Magari c'è quello che mangia roba grassa e non ingrassa, è di costituzione così, però il colesterolo, i trigliceridi, quando sono alti, cosa succede? Si bloccano nelle pareti delle arterie e poi alla fine ti tappano tutto. Quando bloccano le arterie ti viene l'infarto. Sì, l'arterie, certo, capito, sì. E vabbè, per farti capire non c'entra niente quello se uno è grasso, vabbè, quelli sono proprio, diciamo, sono più nella parte si presume, comunque anche nel mago gli arriveranno stesso, dicono tante fesserie. A rischio, ecco, non voglio la parola già. Sono più a rischio, comunque vabbè. Io vivo la giornata, ogni giorno, ora sei lì a fare progetti, sono perché ti ho sentito, ma chiedi di fare progetti a voi. A me mi è venuto un amico di 18 anni, e poi anche lui stava studiando, era al CIPU, si voleva fare quell'altro, qui, adesso è al cimitero, adesso avrebbe avuto 4 anni più piccolo di me, 32 anni avrebbe avuto adesso. Figurati. È morto di fame. No, vabbè, dico, qualsiasi cosa, già incidente, infarto, per farti capire. Perciò progetti non conviene farne, e così fanno piano, quando c'è soldi mano le fai, e poi piano, vedi lì, e questo, facciamo un esempio, io dico adesso, nel 2015 mi compro la macchina, non lo posso mai dire, mai. L'arrivo che posso, me la compro, se no non mi pareggio. Ma così non vivi tu, uno più niente si deve fare, poi se ci arriva ad avverarli sui progetti è meglio, se non ci arriva pazienza, che ma se uno deve vivere solo pensando di morire allora non vive più, bisogna essere anche un po' ottimisti, dai. Quanti ci sono? La nostra è una roulette, ogni giorno, e forse è anche vero che forse conviene più viverla così alla giornata, perché arrivati a un certo punto, cioè si pone a fare progetti, buonanotte. Penso, adesso tu prendi persone che stanno una vita lavorando, una vita, tipo 30-40 anni di lavoro sulle strade, se non le pensano dopo un anno crepano, però l'hanno fatto, dai, dimmi già. Lo so, io ho amici che sono andati dopo 6 mesi che sono andati in pensione, è venuto un amico che è venuto il tumore alla testa, ha cominciato a perdere l'equilibrio, cosa, non sapeva cos'era, ha fatto le analisi, tutto grande, un tumore alla testa, che li comprimeva il cervello, non li faceva perdere tutti l'equilibrio e tutto. Vabbè, vedi, quelli già come ne hanno niente, è brutto, vedi già, sono cose che, dico, fanno una pensione a 55, massimo 60 anni, ma che cazzo fanno essere da 5 anni, ma stai scherzando, a me si vive qua quegli anni, ma sono 10, 20, quelli che sono, ma molte volte neanche ci arrivano, capito già, hanno lavorato una vita per che cosa? Per niente, solo esclusivamente è passati le cosiddette palline tutta la vita. No, sono d'accordo già. Mio padre già se la conduce, grazie a Dio, se io prendo da lui se la conduce bene. Ma io te lo auguro Gianni, te lo auguro di cuore, ma veramente, perché lavori, ti hai fatto una famiglia e tante cose, hai fatto tante cose, ma quello che ho visto io, ecco, ma non è a tutti, capito, non conosco tanti lo stesso. Tu prendi i miei comune, non fanno niente, perché non fanno niente. Quindi c'è un giovane che ha 70 anni, no? Ed è a cosa andare in pensione, quello sicuramente si fa un anno di pensione e poi crepa. Quindi tutti i miei comune vanno in pensione e dopo meno di un anno crepa. Lo sai perché cosa succede anche? Perché tu sei abituato a lavorare e di colpo ti fermi. Quando si va in pensione bisogna fare del moto, del movimento, perché il corpo è abituato a muoversi, a cose, e di colpo quando si vede fermo senza fare nulla si rilassa e a volte succede che diciamo ti deteriori da solo. Infatti, perciò conviene sempre vivere la giornata, eh? Ogni giorno, è una stare lì a fare progetti, ognuno fa come vuole. A volte lasci le cose, non credo a persone che non si meritano niente, c'è anche quello da dire. Avanti Antonio, riprendi, di la tua. Chiappa, io dico una cosa, che dopo, quando uno arriva a una certa età, deve cercare di di essere sempre attivo e sempre in movimento, e tutte cose, tanto c'è anche il tempo per fare alcune cose, e quindi se si deve fare una gita se la fa con la moglie, cerca di, finché uno ce la fa, cerca di andare avanti così. Ma io, c'è il cugino di mia moglie che sta per andare in pensione, c'ha l'età mia, 51 anni, che sta per andare in pensione, vabbè, ha fatto i suoi anni di lavoro, tutto grande. E lui però, da quando lavorava, tutte le occasioni sono le sue, vanno a asparagi, vanno a funghi, vanno a lumache, sono sempre camminando, stanno sempre camminando. Poi se non vanno a fare queste cose, lui ogni mattina va e si fa 20-25 km a piedi, parte da lì punti, si fa tutte le zone dell'agro, eccetera, eccetera, perché gli piace il profumo proprio della natura e cose. C'ha il tempo perché diciamo che lui fa quell'orario lì e poi ha finito, la sera è libero, la mattina presto è libero perché entra tardi a lavorare, quindi diciamo che ha il tempo, ma lui continuerà sicuramente a fare tutte queste cose perché lui è appassionato proprio dalla natura, gli piace raccogliere gli asparagi, queste cose qua, infatti fa tutto funghi sott'olio, asparagi, di tutto va. Già ne fa, dai. E vabbè, che quello vuol dire? Vuol dire tanto. E vabbè, comunque. E sono tanti usi già che vanno a correre, ma non vuol dire che quello. Se hai muri muori un macchiaccio tranquillo, anche se ti tieni in forma, non mi fa niente chiso. Però di già, ma se tranquillo devi andare. Vabbè, guarda quello nella palestra bunker che stava facendo allenamento, era un bravo ragazzo, anche facendo sport, faceva pallacanestro, era sempre controllato dai medici prima di fare le cose, le partite, eccetera, quindi è una cosa che è venuta di colpo e non era grasso nemmeno, era bello atletico. Gianluca simula, sì. Vediamo un ricordo, in sede, un cristiano di Bissina, allucinante. Vabbè, vedi, quello la prova, sei con chi? Io lo guardavo molto spesso, perché io stavo a 2:30 di notte, lì a Pradania, dalla messaggeria sarde. Prima non entrava, lui stavamo noi quelli, gli autisti. Stavamo i giornali, poi caricavamo. Lui faceva lo smistamento delle, come si chiama? Di quelli, vabbè, quelli di scade, la roba che non vendevano, no? Ne fa uno, la portavamo lì al collocamento e c'era sempre lui, col padre, col padre di dentro. E il resi dei giornali? Allora ci scanta, diciamo, vabbè. Cappagatto. L'ho visto quel ragazzo lì, hanno provato a massaggiare, tutte le maniere ce l'avevamo anche noi. Ci è venuto anche il 118 col medico, ha provato il medico, sì, ha avuto delle riprese di battito cardiaco, la respirazione non c'era più, non respirava più. Questo ragazzo ha avuto, non vuol dire che già succede, è così, è strano però, si è controllato, molto molto strano, si è crepato lui questo ragazzo. Tu lo sai benissimo che prima di fare le partite e queste cose li fanno fare tutte le visite, tutto quanto, ogni tanto gliele fanno fare. E purtroppo, dottore, abbiamo interpellato il dottore, ci ha detto dottore, ma cosa può essere di peso? Ma forse ha sforzato troppo facendo allenamento, dice, già, mi ha detto, quel ragazzo lì poteva essere anche guardando il televisore, quelli si chiamano morti bianchi. Poteva essere anche guardandosi il televisore, seduto nella sedia, di colpo, tac, e non c'è più nulla da fare. Ecco, vabbè, succede più. Che giovane, ma Giuseppe. Cava, è vero, guardiamo anche i professionisti, quelli fanno i campionati calcio più seguiti di quelli, eppure più di uno ne cade a terra come una pera cotta. Sì, abbiamo fatto di tutto, abbiamo portato anche l'ossigeno portatile dalla sede, abbiamo dato ossigeno, l'abbiamo assaggiato, un casino. Perché le prime che siamo arrivati siamo stati in e ce l'ho anche io. Però quando è no, è inutile, quando bussa è quella la storia. Defibrillato, tutto quanto l'abbiamo fatto, tutto quello che si poteva fare l'abbiamo fatto. Ha dato dei cenni battito cardiaco, che prima era proprio piatto, poi faceva il grafico, però non respirava più, abbiamo cercato di dargli ossigeno, niente da fare, era proprio quando si ferma e poi lo faceva per un attimo e poi si bloccava di nuovo il battito. K, vuol dire che era arrivata l'ora. Ma è stato fortunato, poveraccio. Cioè, 20, quanto era già? 27, 28 anni. Era giovanissimo, no? Infatti hanno intestato a lui la palestra adesso, non è intestata a lui. Ma io come se lo vedessi oggi, più di mezz'ora, che di solito si fa per un quarto d'ora, poi lasci perdere, non c'è più nulla da fare. A lui siamo stati più di mezz'ora. Arrivato prima, lui era della Misericordia, tornato era un volontario della Misericordia, quindi cioè, ti puoi immaginare se avevamo tutti gli interessi di cose, di farlo vivere, cioè, qualsiasi persona, però lui ancora di più. Vabbè, ti credo. Riconosci Genelli, Andrea è l'altro, Sebastiano. No, non riconosco Luca, io diciamo non conoscevo manco lui, però sapevo che era un volontario. Poi quando abbiamo sentito gente gridando e cose, siamo andati subito con l'ambulanza perché pensavo fosse successo qualcosa. Ci hanno detto che era stato male questo ragazzo e cosa, siamo entrati dentro, abbiamo mandato subito l'ambulanza in sede a prendere l'ossigeno e abbiamo portato addirittura le bombole lì, abbiamo provato tutti i costi. Ma quando sono venuto in là, poi è arrivata la Misericordia, c'è stato il cambio, poi sono venuti quelli del 118 col medico a bordo, hanno fatto il cambio alla Misericordia, insomma ci hanno provato tutti. Vabbè, voi non andate così, vai già, è pazienza, io. La vita è solo una, siamo di passaggio tutti, non c'è nessuno che è di passaggio, tutti, chi più che meno, perciò dobbiamo vivere, ripeto, alla giornata, basta lì a fare progetti, poi per che cosa, finché uno ha una famiglia, adesso prendiamo Giuseppe un esempio, lui ha una famiglia, una moglie, dei figli, va bene, ma quindi a me che non ho famiglia, faccio tante cose, per gli altri che non si mettono, scusate la frase, perciò io non faccio niente perché non meritano già, non meritano, allora Giuseppe riprendi. Io riprendo giusto per salutarvi, mi faccio un bel riposino adesso, dai, che domani si trabacca di nuovo alla grande. E niente, grazie per la chiacchierata, è stato un piacere risentirvi tutti e continuate in un buon QSO, ci sentiamo presto, dai. Cappa Giuse, dai, ti auguro buonanotte e buon trabacco per domani. Avanti altro. Buonanotte Giuseppe, buon 144, ce la risentiamo tutta quanta le prossime. Avanti Luca. Ciao Giuseppe, buonanotte. Alla prossima, buona giornata, per domani, buon lavoro. Fate sentire ogni tanto, non dico sempre, ma ogni tanto. Ok, ciao. Ci sentiamo, ciao, quel ritmo. Ciao Giuseppe. E Luca, dicevo, se la vita è una, ma ci sono tanti modi di viverla, c'è quello che la vive in pieno, il periodo che vive, macchine grosse, tutte queste cose belle qua, e ci sono quelli invece che devono faticare per vivere, fanno più sacrifici, Sì, se tu prendi, facciamo un esempio, no? Prendi tu un tossico dipendente, cazzo, fa una vita di merda, siamo insieme, fa una vita proprio di merda, pure ci sono tanti che capo, ne conosco uno che è allucinante, si è mangiato per figli a carriera, a gocce, poi vabbè, però parliamo di eroina, cocaina, di tutto si sta ingudito, eppure sempre, anche se è un po', come dire, è un po' trasandato, no? Eppure vive. Cazzo, ma c'è un quel grebaguno, fa giunta, fa sport, e scriva. È quello che è un po'. Da fastidio già, capito? Uno fa la domanda in me e continuava a vivere sempre. Come diceva mio cognato quando si è preso la leucemia, si diceva, se è vero che esiste un Dio, perché si è dovuto prendere come c'è tanta gente che fa male, che ammazza, che fa? E io invece che ho sempre lavorato, sempre mi sono comprato sempre bene, si è preso con me. Vabbè, comunque già, doveva andare così. Cioè, va così, perché così? Mi fa una picca di merda. Non mi vede di più. Avanti Giuseppe, poi faccio il prantunio, io mi assento 5 minuti. Giuseppe, invece te sopra il cavallante, avanti Giuseppe, dimmi come stai vicino. Già, se senti quella persona lì, o senti al telefono, vedi che l'ho cercato, capito? Appagato. Io non lo vedo, ci siamo anche presi di vista, io l'ho visto l'altro giorno per caso, perché sono andato al centro commerciale, la piazzetta era lì. Ci è andato a comprare la roba e infatti ho detto cosa siete in giro i figli? No, stiamo lavorando, ci siamo al lavoro, un attimino di tregua, stiamo andando un attimino a prenderci un panino e così qui ce ne ritorniamo al lavoro. Allora, se ti capita di sentirlo, salutano, ho fatto un miracolo. E ci vediamo là. Ciao Antonio, ciao Gianni. Grazie, ma sono il figlio. Ciao, ciao, ci sentiamo. Ciao, Leonci, dai, ci sentiamo alla prossima. Un po'? Viaggia. La riprendo. Che appagato. Lui, se è vero, alcune cose stava dicendo Luca. Io ne conosco uno in Bonottore, che è stato 40 anni che si faceva, morto di overdose dopo 40 anni che si faceva. Così. Una vita, Allora. Ma abbiamo attuato, l'hanno portato all'ospedale. Quando io ero con l'ambulanza stavo scaricando un paziente e sono arrivati la visita del dottore in sirena. Ho detto questa è la mia faccia, mi dice conosce da me. Guardate la luce, lui la muscola. Ho detto che cosa è successo? Io ho detto è un incidente su una nave. Un incidente su una nave, il giorno dopo ho saputo della morte di un verdone. Ma chissà come intera però. Bianco. Detto, come intera che andrà vivo, già è stato un estratto. Ma tu, un tipo grosso, del contrario. Gaffa, e va mimo quando cammina va con lava tutto. No. Era di quelli luffi che sapeva giostrarsi dalla droga, capito? Stava attento come si iniettava e cosa, probabilmente dopo tante iniettate cosa ha fatto uno sbaglio. Magari un padre fa. Poi erano di buchi in mezzo, non è così, no, già sapete. Gli avevano messo qualche taglio mortale in mezzo. E io pure la pula, perché ha fatto male. In due erano quando li hanno portati, due. E lui è morto. Infatti uno, così dicono, noi che dicono così, perché io parlo con persone, chi ha la merce, no? Soprattutto diciamo le persone, chiamiamole boss, non ti puoi chiamare pusher, però si tengono la parte loro, si fanno le cose loro, cioè saltano, fanno bomba, però si fanno solo gli spiegati comunque la riga, sanno perché è buona. Poi da lì quando danno una parte fanno il taglio, fanno un altro taglio e poi quando uno proprio se la finisce tutta e ne avanza un po' inizia a metterci un mondetto in mezzo, capito? Poi se ti vogliono male, se ti comporti male ti danno quella mondetta in mezzo e sei fritto. Ma finisci in quel mondo lì, per carità di Dio. Vabbè, cazzo, c'è Claudio con un microfono, con un panel, sto macchino da base, ma una radio che la vede il mondo. Allucinante, ragazzi. Molte volte gli accoppiamenti vanno bene. Sono senti, è meglio del Kenwood, è una cosa allucinante. Fa il carrato che mi fa scendere il tutto. Guardate, così non l'ho mai sentito, ma la chi non l'ho mai sentito, Ascolta, ho già qua, 2 secondi fa. Allucinante mi ha radio. Già fatto. Ma che è allucinante? La sua cosa è l'Inuit è quello, L'Inuit è quello che c'è voi. Quella base sì. Sul mio radio, allucinante. Mi ha comprato questo microfono, un parlo più 2, non lo so mi ricordo, ma ha detto. Cidiale. Parlo più 2-1. Che cosa del genere? No, poi residere, è quello lì. Ci avevo scommesso che era un clip di quello. E con le noi te faccio ben bene. Se riesci a trovare l'accoppiamento, prendi 3 canali, mangi una bomba. Sono omicidiale già, omicidiale, avanti al tuo. Buongiorno, Radio Bome. Sì, qua non c'è un breve dubbio, è allucinante, è allucinante. Vabbè, aspetta 2 secondi, riprendete già, vai tu, riprendi tu. Gatto, dicendo qualcosa. No, la mia brutta la radio, anche se non c'è un buon microfono amplificato. Cosa? Beh, è un apparato già amplificato, c'è di buono. Quelle radio lì comunque, quelle radio antiche, vanno ben bene. Anche la tua va ben bene, quella che ti ho dato io. Quella è micidiale. Se invece abbini un tamer o qualcosa di grosso, va ben bene. No, l'avevo provato, non va molto d'accordo col tamer. No. No. E magari ha bisogno di qualche microfono diverso. Ma se non il tamer, il coso, come si chiama? Quello che c'ha anche Natalino. Quello si ne pompa. E dipende, il terno di 3 va bene col corso, va bene col strumento di chiama, va, col superstar, però il 3600 FM. Vabbè, che bagnana, ci sono tanti microfoni che si adeguano o no? A voglia. Certo. Comunque noi modestamente anche queste che stiamo usando noi sono delle buonissime radio, non c'è da dire niente. Vabbè. Questa è molto costosa anche, però ho voluto fare una gazzata, no? Gappa gappa. Sì, comunque non è una cazzata, cioè quando la radio si merita tutto va bene, no? Non si può dire niente proprio, non si può dire. Comunque capiscimi bene, non me l'ho bevuta. Cosa? Sì, non me l'ho bevuta io. Tu capiscimi a me e via. Non ti abbiamo detto nulla di diverso. No, no, poco fa. Stai facendo bene in tutti, interessa a te qui. Gaffa, gaffa. Impara, intelligente. Ah. Impara, intelligente. Comunque anche questa è una bellissima radio, questa che sto usando io, a me mi piace da morire. La modulazione è bellissima. Cappa, a me piace anche, come va, come, cioè molto maneggevole come radio, quindi a me mi fa bene. Per la casa è piccola però, a me mi piace più la radio grande. No, dico che questa a me piace di più, non vengo da di qua. Avanti Luca, è sempre una questione di gusto. Yeah. cassa, sai cosa è molto maneggevole già, è quello che io uso più questa anche perché ho molti figli, poi anche perché ce l'ho nuova, che tratta la radio nuova, la radio vecchia te uso così ogni tanto, li accendo, ieri l'ho accesa. Guarda che quella grande c'è una bella radio, mi ha detto. Non che è una bella radio già, però io sono fatto così, voglio usare la radio che mi sono comprato perché la preferisco di più. E io la radio, per dire, che mi sono comprato, la città a parte se volante lo stesso. Scappa. Ma non lo so perché, cioè, anche girando il canale, io quando sono sdraiato nella poltroncina, per dire, mi viene meglio perché tocco il pulsante, è diverso. Infatti è più pratico magari, dai. Ma lo sai perché? Perché tu non hai un posto fisso dove tenere la radio, capito? Tu le togli, le metti e via dicendo. Invece che ho un posto fisso, che posso fare la scelta, a parte le accendo tutte, comunque scelgo sempre la number one. Per me la number one è questa. E infatti non le userò questa. Chiappa, sai perché? Perché la number one è questa, perché parto anche al presupposto. Il microfono va già bene così, non c'è da farne niente. Non ho da consumare batterie, non ho da fare niente, quindi io preferisco questa. Appagato. Sì, è completa. È completa di tutto. Basta che tocco solo un pulsante qua e vado subito al canale. Come questa qua che è completa, che c'è il microfono che è, diciamo, precompresso. Chiappa, il minimo sarà 100 ohm. Yeah. Il guanto non me lo chiede perché non c'è occhiali, non lo vedo. Chiappa. Cioè, non devi farmi nulla, non devi farlo, cioè la radio fa già bene così senza toccare niente. Alla fine, sì, quelle là sì, per carità, le uso, le fare, però la mia preferita è questa, cioè c'è più maneggevolità. Appaga, chiaro, adesso un pochettino sbagliato, ma è più, la sento più maneggevole, mi piace di più, me, anche come cosa di microfono, è più, non lo so. Che vuoi dire, più maneggevole. Pagappa. Diciamo che comodità ne ha, anche la radio è buona, però io per casa preferisco più grande, quello è per macchina mi pare, poi ognuno vede le cose che piacciono a lui, non è che, però per casa mi piacciono più stazioni base, queste cose qua, solo che bisogna avere un lupo. Il capo, chi cioè? Ma cosa per macchina? Andava e fa tutto, andava. E vabbè, ma è costruita per la macchina, dai. Ci sono apparecchi base e apparecchi per le macchine. Gli apparecchi fanno tutti così, fanno tutti piccoli. Perché sono piccoli ma potenti. Vabbè, quali fanno così? Prova ad andare in America, vai, se vieni su stazioni base, che ne vuoi? Non so. No, qua invece si va su più piccola ma potente. Qua lo sai che cosa c'è? Che ha preso il mercato da 27, una roba della 27 ha preso il mercato e quindi le stazioni base le hanno lasciate perdere, l'ho pistolato per cose che costano meno. Perché ogni base le pagavi a buco di va. Adesso nel mercato. Comunque a me stato le base ce n'è sempre una che mi piace, quella che ci ha fatto il DAC. Troppo bella quella stazione. Sta valvole. Ma è un ibrido. Non so, c'è lo stadio. Allora c'è. È metà transistor, metà valvole. passacotaio finale a valvole, mi sa. Sì, sì, è così. Il passacotaio finale a valvole è quello lì, gli sta bene un microfono, stanno più tre sidelic. Ogni avozzi di platino. Bella calda, bella forte, bella grossa. Sì, già lo so già come funziona pure la radio. Se la voce calda di là. Però cavolo, quando si guardano le valvole devi andare, cercarle, costano anche. Lo so. Perché non ha di quei problemi. Trova, conosce un po' di gente, conosce gente di tra che ricostruisce, che le fa e cose. Forse 11 arnesi si paga appena appena uiuia perché tutti i lineari non sono valvolari, ne si fa con le balle di buccioni chiappa, se sbagli la taratura feci tu ero tutta canta l'apparecchiatura ci sono apparecchi che costruisce un famoso carabiniere che fa proprio lineari per i carabinieri e costruisce dei lineari che sono alla fine del mondo da 2000 a 3000 fatti. Ma insomma lì non devi sbagliare mai la salatura, se sbagli paghi con quelle lì. Accordatura, dai. Se sbaglia cosette, se ci tu l'apparecchio e tutta canta la cosa appresso. Lo so, però già questa attrezzatura le sa anche usare, non ti preoccupare. Chi usa direttivo e tutta questa roba qua vuol dire che è in grado di poterle usare, no? Già lo credo, già, se no roba di coppio, vabbè. Non ti fa la stanzanera. Ho visto uno di lineare veramente va un boccione dentro come va. Quanto erano? Enormi, piccole valvole d'oro. Internet l'ho visto. Aveva un valvolone così grande, cioè, da boccione. Che appena quando accendi quello lì deve stare attento, deve stare, non si sa mai che cancello della zona si apre e chiude, tutte delle cose strane. Non si sa mai che macchina, la buona corri puro, Sì, sull'anni luce, sulla. Capo, è molto pericoloso in quello. Infatti questa cosa devi avere in campagna. Se non te lo da centro abitato. Io lo credo già. L'antenna che pare un'altra gambettura appare un coso. Un pezzo di ferro di quelli messo al fuoco. Poi vabbè, più di un anno un cazzo di antenna. Ma piglia l'orbita, la piglia, il coppio. Giallo credo giallo. Un coso, il capo si fa a uncino se fa. Ha pagato. Visto che una volta una bassona ha fatto scoppiare il BL. I piedi si sciolgono, non è che scoppiano, si sciolgono dentro. Già lo vedo già. È molto pericoloso comunque usare. Potenza del genere, se si sbaglia si paga. Fa un bel danno. Devi fare il suo con molta attenzione. Credo, già, c'è stato un usare bene. E comunque, ci vuole soprattutto la passione. La passione, soldi. Tanta attenzione facendo le cose. Lo credo, già, non stai usando un apparato normale, no? Comunque come tutti gli amplificatori, anche quelli da 600 watt, da 300, devi stare molto attento, che quando si usano queste cose qua, naturalmente li rischi. Sei in base al cavo di dove, insomma. Un attimino già che va un attimino al studia capitolo, va. Occorre. Un gatto che fa così, cosa fa? Miau miau miau miau. Mica, adesso è sbarrato gli occhi. Mamma, così dice. Ah, lui mi agola normalmente, il padrone da sotto, con la mano, e muove il muso. E muovendo il muso fa sembrare il suono di mamma, capito? Tu vai su, se c'hai internet, vai su YouTube e guarda che gatto che dice mamma, capito? È un greve veraggio, intanto. Devo andare su YouTube. No, ma intendevo adesso acceso. No, adesso c'è la musica. Un po' agire. A casa prima c'avevo il computer solo io, poi si è avvicinata mia moglie e l'ho prendere mia moglie. Adesso anche Manuela. Adesso non Manuela non mia moglie, alla fine che dico di pure. E tu guarda, ma sì, te ne compare di uno piccolino tutto tuo. Ma guarda come è trattato nessuno. Abbiamo tre così, no? Uno è privato. No, compro il telefono adesso, il telefono che va su internet, così è più comodo, me lo porto a letto. Il telefono più comodo. Ce ne sono. In giro ce ne sono. Belli. L'iPhone 4, c'è il Galaxy che è il migliore che ci sia in assoluto. Galaxy. Dai, vai a vederlo, vai. Sai dove? Alla Vodafone che c'è il tabacchino di quello sardo, di quello che parla di sardo. Ah, da Giordanese. Penso che quando andiamo a comprare la roba 30, 40, 50. E che c'è? Che sono battati io. Ehi, quello che c'è a fianco. Qui ci lavora mia nipote, quello con gli occhi chiari mia nipote. Dai, hai capito chi è? L'avevo vista già. È mia nipote quella, è la figlia di mia sorella. Perché? Vedi che ci sono. C'è il Galaxy. Fatelo vedere che cosa tutto fa. Chiappa. È in gamba, ma io l'ho vista. Vabbè, mia sorella è una bella ragazza. Giovane, era bellissima mia sorella. Chiappa. E comunque è molto... L'ho vista quella ragazza molto in gamba. Vitto. Lì ci sono comunque. Chiappa. E pure lì non è buono in inferno, perché dobbiamo fare bella figura. Io metto tutti i top di telefoni. Ce l'ho chiesto proprio lì, qual è migliore, l'iPhone 4 o il Galaxy? Ma è tutto zio già, pigliati il Galaxy se devi prendere, perché quello lì è ancora superiore all'iPhone 4. Chiappa. Lo so. Ma le tariffe come sono? Devi pagare praticamente un tanto al mese, c'è questo contratto qua adesso, invece che mettere la scheda, praticamente paghi un tanto al mese, per dire 24 euro al mese, c'è il telefono gratis. No, già va bene. Dai, un accomodato d'uso mi pare, dai, non proprio gratis, ma... Ciao, ma... Ho già sempre cercato un computer, c'è sempre un telefono, ma troppo piccolo. Eccolo là, si vede un bel bene, io l'ho visto. Ma sto scartato quello che mi prende il telefono, ma ce ne sono che vanno su internet, vanno a tutte le parti. Ci di luce a bei denti, ma... Lo so, questo computerino piccolo, ma molto grande, ma un computer piccolo va bene. Ma sono grato solo un 2 e basta. Ma io se lo prendo piccolo tu premo tre tasti insieme con le dita che c'ho. La miseria. E Luca tu sei? Chiappa. Eppure vabbè, per bullicione piccolino. Però no, non si trova nessuna difficoltà. No. No. Ti sei abituato adesso a vederlo? Cazzo. Sto imparando piano piano. Un po' per tutto, per la vista, per la tastiera che è piccola. Addirittura me lo metto al 40%. rendimento. E addirittura, già. E addirittura. Io non ho messo gli occhiali per vedere da vicino, ma non mi viene ingrandisco. Chiappa. Ah, non mi piacciono le scritte molto grandi. Molto, è una questione di cosa. Tu, grazie a Dio, ci vedi bene, ma io da vicino difetto della vista come tutti quarantenni. E non ti credi che sia il massimo? La vista. No. No. Vicino ti si stancano. E mi dà un pochettino fastidio. Allora bisogna che te lo fai vedere. Che ti fai vedere. E vendono quegli occhiali in farmacia che costano la fessilia 20 euro, 30 euro. E si vede bene, come quelli che ho io. Ti metti quelli lì, però prima devi fare la visita all'oculista, dall'oculista ti dice quanti gradi ti mancano. Poi tu vai col foglio dell'oculista con i gradi che ti mancano in farmacia. In farmacia ti dico le modifiche, con i gradi che mancano lì sono questi. Tengo, guardi, controlli, si cerca quello che le piace e te lo fanno uscire. Fai un attimino già. Grazie a quello. Già, fai come qua già. Eccoti qua. Dovuto correre. Cosa ho combinato agli altri? No, niente, stavo toccando il film. Ah, ti stavo dicendo, la passa è quella, capito? Voi dal dottore, poi me l'ha consigliato il mio oculista. Mi ha detto che le cure andare in farmacia costano di meno e sono efficaci uguali agli altri. Solo che sono fatti, diciamo, le montature sono un pochettino più fragili, ma se li tiene bene ci ritorno a vita. Ma non bisogna sapere la gradazione. Infatti tu devi andare prima dall'oculista, ti fa la visita, ti siedi alla gradazione, poi in farmacia con 20, 23 euro te li compri. Ah, va bene. Lo dico io, un oculista dove si paga poco. Noi ci ha sempre fatto, l'occhio me l'ha fatto operare lui. L'altro vabbè, me l'ho operato un'altra parte perché ero stufo. Chiaro. Io dico non so una cosa, capito, tutte le case che si pagano, cioè devo pagare pure l'oculista. Ci sono che non sono a pagamento, vai all'ospedale, la clinica oculistica ti fa visitare, però fare file esorbitanti, aspettare mesi, voglio vedere l'assenti a tutte le case. È preferibile pagare il tipo di 40 euro e fate la visita. Chiappa. E comunque non sono molto d'accordo su certe cose. Uno lo fa perché uno ne ha bisogno. Però non sono d'accordo. Certo, da voi che pagano il gigante di Marasotti in una busta paga a burro. Se vuoi andare a curarti i demoni, chiusa tutti questi problemi, non ci sto molto. Lo so, ma purtroppo l'Italia è questa, la sanità è questa. C'è gente che si deve far controllare per tumori e deve aspettare mesi. La signora si stava lamentando l'altra volta, ha detto che c'era un tumore, che praticamente l'hanno rimandato già 3 volte la visita, alla fine... forse deve andare a pagamento perché non è possibile. Ma una persona non può aspettare così, questo è una malattia seria. Io spero che non ce l'abbiano loro uno per uno, che rivenga a loro brutti disgraziati. Purtroppo è così, purtroppo com'è che mi animate andare fare la visita oculistica alle policlinico. Penso che non è che viene ovvero nessuno, alle visite di Manzano, sono costanti che vi pensa a lutto, che non li apri a lutto. No, non si è vista un'anima a casa, chi li ha destra, chi li ha manca, nessuno sapeva niente. Perché stavo e ho detto, scusi, ma come mai oggi non c'è nessuno che ha una visita per oggi? Sicuro che sì, ma non stanno più visitando, non c'è la sala operatoria chiusa, non stanno più facendo nulla nel turistico. sicuro? Sì, guardi, io gli ho fatto vedere l'appuntamento che mi avevano dato loro. Dice, l'appuntamento è giusto, ma loro non so se ci viene qualcuno oggi, mi sa che non ce l'è, dottore. Sono diventato uno schifo, sono diventato. Non si fa qualcosa qua, se va male. E io avevo chiesto il permesso al lavoro. Con che coraggio ci andavo a chiedere il permesso? Dice, ma io te l'ho già dato per luglio. Già dicevo che non è venuto il dottore, tu ci credevi? Non ci credevo, no, uno. Poi una signora mi ha detto, guardi, anche io ce l'ho appuntamento per lui, è arrivata questa signora, dice, anche io ce l'ho appuntamento per lui. E ho detto, signora, guardi, così, così, ma davvero, ma non stiamo scherzando, dice, sto venendo da fuori. E gli ho detto, è così, così. Ha detto, riprovi, le facciamo le analisi, mi ha detto, giù, prima di fare la visita, e così lei deve fare solo la visita, basta, le analisi le ho già fatte, mi hanno prelevato il sangue, hanno fatto l'elettrocardiogramma, mi hanno preso la pressione, tutto, pianto non mi hanno più chiamato. Grazie a te, Gia. Lui sangue me ne ha inviato. Adesso sono stato costretto ad andare in un altro ospedale, ho pagato 100 euro con un altro oculista che opera all'ospedale alle cliniche. Sono andato da lui, mi ha preso l'appuntamento, sono andato all'ospedale e mi ha operato, senza nessun problema. Grazie a te. E il giorno prima di operarmi mi hanno chiamato dal policlinico. Dice, scusi, suo marito c'è, cioè, sì, mi dica. No, perché domani è il giorno che dobbiamo operare a lui. Se abbiamo riaperto la sala operatoria, lo operiamo domani. E mi abbiamo detto, veramente domani deve andare a operarsi da un'altra parte. Che schifo, che schifo che sono, che fanno. Ebbene, certo. No, quando cominciano a vederci di notte, che vede tutti gli effetti cross screen, cioè effetto stella, i fari che ti abbagliano, diventano una stella, ti abbaglia, cavolo, non vedi più nulla, non vedi più da lontano, né niente, che cosa fai? Con 3 gradi di vista cosa fai? Cosa fai? Vai a curarti, cosa devi fare? Devo fare anche il rinnovo della patente. Se andavo con la cataratta non mi baciava, ne mancava la patente, si baciava più di burro della valle. Chiappa. E beh, uno si deve curare troppo. Con la cataratta bisogna toglierla, altrimenti più vai più non ci vedo niente. E poi a me viene la macchina che approccio un beato. Notte guidavo sempre con questa frenesia di non vedere qualcosa, sempre agitato, capito? Sì, ma adesso però la vita ti è acquistata tutta la vita, sì, come da prima. L'ho riacquistata anche di più da lontano. Però da vicino, come tutti ultra quarantenni, giro degli occhiali, ma con gli occhiali vedo benissimo. Metti le patente, allora va. Ma già ce li ho gli occhiali, quindi ho comprati. E ne ho 2 paio addirittura, un paio che mi avevo fatto per non vedere l'effetto cross screen, ma non faceva nulla per la guida di notte. Ma cara, ho capito. Sì. Ma l'importante è che sia andato tutto bene, cioè, mi sembra che abbiamo operato tutti 2 occhi addirittura, prima uno e poi l'altro. Sì, tutti e 2 a me, una al policlinico e una alle cliniche di San Pietro. Chiaro. A me non l'avevano fatta quando c'aveva, cioè quando era... mi sembra che avevo 80 anni c'aveva, non mi ricordo bene. Che l'hanno operata lì, alle cataratte. E anche perché normalmente la cataratta dovrebbe venire a vecchiaia, ma in qualche caso viene anche da giovane, specialmente dei soggetti diabetici, quella è la fregatura. Grazie a Dio quella non ce l'ha mai avuto, ma ti ha detto. E poi come te lo chiama la diaeta? Non riesci a dirlo, di Cattarazzi. Lo chiamo in tempiese. Galluriso. Galluriso. Vabbè. No, perché non riesci a dirlo. Non me non ma come sta bene. Ehi, le già. Pian pianino già va. E beh, le crisi ti sta venendo, c'è. Dopo la caduta bene si è ripresa, sì. Io adesso va meglio. E così. Via, almeno lì da. Già va. E mamma fa più male. Ma le crisi le ho tutta per due. Davvero, più male sta. Oh, a me era la cera. Mi si che? Capo è... Diciamo che stanno la preta che c'è abbastanza dita. Guarda, per quello che ha subito, per l'età che ha... va bene. Aspetta, la voglia. Capo. Beh, secondo che persona era stata chissà in onde. Magari se l'abbiamo fatto un giorno, non me l'abbiamo fatto. Può anche darsi. Pensa che mio padre, quando stava proprio male, cosa? Io te ci hanno detto Massimo, insomma, cos'è passata la notte. Quel giorno lì ha durato altri 12 giorni. Che poi comunque l'hanno rovinato un po' loro, eh. Allora. Però io sono del parere che se loro avessero assorbito quel liquido che aveva nei polmoni mio padre sarebbe stato ancora qua. Io penso così. Secondo me se loro gli avrebbero fatto le cure giuste, quell'uomo se l'avrebbe tirata ancora per anni. Dai, avevano anche trovato un tumore alla prostata, ma quello lì dice che andava molto lentamente, che avrebbe durato anche altri 20 anni con quella cosa lì. Il problema non era quello, ma era il fatto del, come si dice, del liquido. Ma bastava che loro gliela aspirassero ogni tanto e via. E invece non è stato morito, per carità. Il giorno prima ha chiesto a tutti quanti a me se stavamo bene. Bene state voi. Già stiamo bene, tu bene stai papà. Sto meglio, là. Sembrava che se lo sentisse. Il giorno dopo siamo andati e l'ho trovato addormentato. Ci hanno detto che era un coma di seconda. Vabbè, era agonizzante. Vabbè, pure quello è successo. O comunque ha campato, quanti anni aveva? 90? Sagoa, 96, Anto. Comunque tutta la vita ce l'ha vissuta, eh. In pieno. Ha fatto molti sacrifici, però quando c'hai 5 figli, i sacrifici li fai, eh. Volava anche sino a mezzanotte, mio padre. Già lo so, a voglia. Facendo scarpe. Se le portava a casa, se le incollava, poi l'indomani se le portava al laboratorio e le cuciva. Ma le diceva, e quando finisci lì, lascia bere. No Maria, non posso mandare via la gente, gli diamo troppo di lavoro, non posso mandarli via. I clienti bisogna tenersi, se no puri di fame. Ha ragione. Qui rientrava già tardi dal lavoro, rientrava alle 9 e così. Veniva a casa e voleva farsi in una stanza, voleva farsi una specie di laboratorio. Ma mi ha detto, ma stai scherzando, una volta che dice il lavoro gli stacca la spina e boh, capo, adesso anche il laboratorio in casa ti vuoi fare, perché molti amici suoi che erano tanto e ce l'avevano in casa, capito? E lui voleva imitare a loro. Però tanto si portava le scarpe, si incollava, faceva la peggio. Ma magari lui aveva anche ragione, perché dice che io i clienti non le voglio freddi, non le voglio neanche perdere, voglio tenermi tutte, non voglio avere nulla con nessuno anche. Ma lui credine aveva tutte le parti, venivano da campagna, da bancari, da era una briga, eccetera, eccetera. E poi, sai, lì di passaggio a Santa Maria, passaggio lui era via Santa Elisabetta, quindi facevano che girare a sinistra, se no lui era lì. E ne aveva da tutte le parti. Poi mio padre era quello che aiutava anche la gente povera, cose, per dire uno ci aveva, era le galline in campagna, non aveva di là, mi diceva sì, non ma non c'ho soldi, e vabbè portami 6 uova. Già, vabbè, con qualcosa da ve raccontava. Poi chi andava, sì, ma non è che mi presta, tanto ti serve, va, si dirava. A me qua io ho sentito due al ciso, eravamo al circolo e non sapevano che era mio padre. Ma ci costava un bel mese, diciamo, così ho detto, ah, signor Mario, il morso, che Luca Sergio Bursa Ustra, insomma, era troppo bravo, stava ascoltando tutto, non li conosceva questi due. Io, proprio delinquenti, che verenchi mi ruriave, a chiedo faccia bene a tutti i canti, un uomo che era un pezzo di pane, tutti li puliano i bene di Zenchivi, pure proprio delinquenti che fila. Se andavi, dice, signor Mario, mi dico se sono stessa, ma io lo dico la verità, se non me ne vado con niente, non mi devo stare a finire un mese, non è che mi prese il detto di Franchi, e appena poi me ne davo. Poi io quando ritiravo passavo, mi dicevo, ma grazie, e ritornavo. Ah, era una persona che non dizia nulla, subito ti dava, dizia. Ciao. Oh. Comunque è una persona brava di carattere, ma non vuole fare problemi con nessuno pure. Ma alla fine te non ce l'ho fatta più, mi sono girato e gli ho detto, quello era mio padre. È stato bene. Ma vero, caspita che piacere che ci fa conoscerti, dice. Tuo padre era un vero uomo, o che gliela ciappa ne aveva uscito. Ciappa. È fatto bene, ha detto, è giusto. È una cosa che cioè ti fa piacere sentire certe cose. A voi cosa fate? State qui, travagliene, non disturbava nessuno. E poi non aveva vizi, non aveva nulla, non beveva, non fumava, non aveva macchina, andava in bicicletta, non aveva vizi. Grazie a Dio, campato benissimo. Diciamo che lui, quando viveva lì a Milano, avevano una fattoria grande, dove c'erano tutto, galline, conigli, tutto, fienile, eccetera, eccetera. Loro mangiavano solo roba che coltivavano loro, che allevavano loro, boh, basta, non mangiavano niente. La frutta quella che avevano loro, gli ortaggi quelli che avevano loro, i conigli, le galline, le uova, tutte queste cose qua, il latte delle mucche, roba genuina, capito? Gappa. E beh, già lo credo, già. Non si vive così, tutta roba buona. Io l'ultima volta che ero andato a Milano, avevo 2 anni. Ma mi ricordo tutto, lo sai, mi ricordo come era sistemato il fienile, dove c'era la casa di zio Enrico, dove c'era la nonna, dove c'era i conigli neri, i conigli fatrici, perché era tutto un allevamento particolare, cioè, ma conigli che per esempio anche 3 kg, 2,5 kg. Già. E andava invece sta roba genuina, sta roba sana anche. Quando noi dovevamo partire in viaggio, ci ammazzava il coniglio più grande, ce lo cucitava e ce lo dava per il viaggio. Coniglio di beh, più grande di quelle di qua sono. Ehi, a voglia. No, aveva proprio la razza, era così. Razza grande. Capo, che è quel rumore sotto il fondo? Emanuela che sta togliendo le coperte e come si chiama? Le copriletto da. Siccome sono sotto vuoto, sono di quelli che toglieranno e si fanno piccolini. Ah, sì, si buona l'aspirapolvere. Esatto. Metti l'aspirapolvere, te le aspira, ti occupa meno spazio, là. E lo stava sgonfiando e ho preso, perché deve essere già freddo, si sta prendendo un'altra, un coperto di più un piumone. No, ho capito, praticamente sono quei sacchetti dove metti il piumone dentro, pigli la tirapolvere, aspiri e via. Esatto. Viste? Sì, perché occupa meno spazio. Ha scoperto questo sistema qua, che occupa un po' meno spazio. Beh, è andato così, Giulia. Comincia a comprare, alla fine per cui sei venuta, poi mi armare che tu. Allora so già. E poi le donne probabilmente non comprano qui. Paura, quando viene mia cognata fa paura, che escono insieme. Mamma mia, che ti dina di penna. Dopo una regane. Una regane di 4 miliardi di cose. Mi piace fare shopping. Ma pure lo shopping cosa? Vabbè. Vedo che sento malare, ne ho visto. Cavolo. No, ho tua ragione. Diciamo che le donne piace girare nei negozi, a me è proprio una paranoia, mamma mia, totale, io solo se devo comprare, guardo, se una cosa mi piace vado subito e me la compro, non giro, intanto poi posso girare 50.000 negozi, se mi piace quello ritorno lì. Non lì è vero, C'è mia moglie gli ha fatto un nome di roba, se... Nella spiaggia una volta questo negro stava vendendo braccialetti, mia moglie l'ha chiamato, si è girato e gli ha detto no, tu quella che fa togliere di tutto e non comprare mai. Ah. E chi mi la conosci? Sì, me l'ha fatto una volta. E, ma se non gli piace la cosa non la prende. Ma diciamo che lo fa anche nei negozi, 50.000 cose che le ha fatto e poi non comprare una. Se non si convince non è presto. Scappa. E comunque sembra così, ma è un pochettino cioè magari non gli dico niente, però chi deve farle la dimostrazione cosa gli dà un pochettino fastidio. Allora sono pagate per quello, sono pagate per fare la roba al cliente, per convincerlo, per... solo che ti fate dire una cosa, se non c'è nulla che le piace non le prende. Così è. No, invece quando a comprare una cosa sono prefissato per quello, la compro e basta. Sì, anche io. Sono diversi, ma le donne hanno più pretese, magari se la trovo una proposta più bellina, c'è cioè più pizzo qua, più stress, un martellante. Cose pizzose, le piacciono con gli stress, con quello, con là. Quindi girano, capito, dove ce n'è di più, le prendo. Certo, diciamo che noi siamo fatti in questa maniera, e figliari, andava, siamo fatti un po' così. Loro c'hanno più pretesa nel scegliere, noi magari ci accontentiamo di più, magari una cosa che se non gli piace molto per la vergogna l'abbiamo la testa. Capo. No, io avevo fatto così, ma sai che andia già, non c'è problema. No, io se mi devo accontentare anche non voglio dire è un conto, ma se ho i soldi che voglio quella cosa, prendo quello che voglio io. So già dove trovarla, quando vedo la cosa mi piace mi abbiglio. Una cosa è se magari in quel periodo non ho molti soldi, allora mi accontento. Però già mi piace scegliere anche a me. Sì, con la verità già sono pure io così, faccio vedina a compare già fatta. Non so guardare neanche, magari se da un'altra parte costa 10 euro in meno, ecco, la prendo e basta, non me ne frega niente. Comunque, adesso già c'è, ci sono i cinesi plin plin che ti fanno spendere poco. Cinesi plin plin. I cinesi. Ah, la C. Cina. La Cina è un furore. Cappa. E a me hanno qualcosa di bello sempre. Sì, c'è la roba. Io ho quei pantaloni che mi ho preso per la pesca, quelli furi di coso che ti ho detto, quelli buttiti dentro, furi in nylon, di modo che se piove ti scivola tutto addosso. Quelli li ho pagati 10 euro. Se 12, non 10, 12. Dopo mi sono preso un giubbotto, sempre per andare a pescare, per anche per lavoro, vabbè. È abbastanza bellino, è caldo, è un bel caldo, morbido, morbido, pelliciotto, è bellino. Che ha fatto bene. Non me ne vago niente a dirlo. Non è che dico, come certe persone dicono, non devi andare alla boutique, la roba non devi andare ai cinesi, non me la fatti nulla. Io non interessante che paghi da voi. Corre ragazzi, ma a tutti, poi tanti che andi alla cosa, a voi, anche da che è pagata, la famosa è una baffurata di cinesi. E dove? C'è quello vicino underground, dove c'era underground, non quello lì, no, l'altro dove c'era il coso, il mercatone prima. Ah? Da una cerchiata, Urane, o c'è un nove, è un diffugio. Fura così, non di notte. No, è furato, a questo momento vanno le telecamere. Sono in vita, non ha cerchiato i cinesi. Hanno chiamato la polizia. Ne va tutto bene. Lo stanno lavorando, non è che stanno giocando. Comunque ci sono delle belle cose dentro, ho visto dei giubbotti di marca, di quelli per andare in moto, tipo Dainese, quelli lì. Stavano svendendo, deve essere hanno preso uno stock, un po' che non c'era la misura mia, se non me l'avevo abbigliato. Caffa. Comunque nell'era non siamo ancora in figura. Tanto da ciappa ne. E anzitutto l'era che siamo, che fura malissimo a chi non viso di nato. Ma non conviene più perché ti trovano, ti vedono. So, però la gente ci tenta, già fame, non va di nabba a mangiare, cosa avanti? Lo so pure tu, hai ragione, ma alla fin fine come ti arriva Ragnana, no? Non è ci dai via, no? Vabbè, non manco girare che ne hai date da mangiare. Tu mi sei vero. Lo so, magari gente che non l'ha mai fatto e non sa manco fare. Purtroppo tante volte sono costretti, anche se è l'ultima spiaggia, perché uno è preferibile che la chieda la roba piuttosto che la roba. Ma che tu vuoi fare il recidivo? Ho già visto. Vabbè. E comunque sempre la gente che fula, non può dirla. Dovrebbero aiutare di più, questa gente che ha bisogno dovrebbero aiutarla di più, invece molti si vergognano andare a chiedere la roba, dire alla Caritas o roba del genere, si vergognano. Ciao, ma io sono vestitia. Sempre Gucci, so, ma tu fa la cucina non va da nessuna parte, perché come arriva la porta già si suona. Ricordo perché hanno i cucci a barre, non sono magnetizzati. Cioè, da voi ne arrivano, si pigliano, no? Non vale la pena. Perché un'umiliazione, uno che lavora tutta la vita, trovarsi di colpo, così andare a chiedere, è un'umiliazione davvero. Lo so. Mentre ce ne sono tanti che chiedono senza averne bisogno, e quindi non li ammiro molto. Ma ci sono persone che non hanno bisogno, ma si vergognano. Lo so, purtroppo è così. C'è gente che magari gli porti una cosa a casa e si mette a piangere, poveraccio. Una volta questa signora ha fatto una spesa un bel grossa e mi ha detto devi portare a questa famiglia qua. E le chiedono chi l'ha fatta, lei dice, non lo so, ma non va, io ho trovato la spesa così, l'ho portata, c'era il suo nome, e la vuole donare a lì. Cazzo si può abbinivo, abbracciato, ma ci mi ha fatto pena. Non va via di nai, cosa? detto purtroppo questa signora ne hanno bisogno, una famiglia che purtroppo ha bisogno, però non voglio che sappia chi gliela manda. Chiappa. Purtroppo. Beh, magari anche per non rimanerci male, hai capito? E va l'abbigliatore di ben di Dio, me l'ha fino a toccarla, gli ha preso verdura, frutta, pasta, un bel di roba l'ha preso. Sicuramente gente che n'ha via. Sì, ho sette cartoni, magari chi ha verde ci aveva un'anima. Chiappa. Ma io comunque me l'ho fatto vedere. No, tu, queste cose qua se si donano, devi sentirti tu appagato di quello che hai fatto, ma non si dice mai chi è stato a farlo. C'è ragione. Tu dentro di te lo sai che hai fatto bene una persona, però la persona non deve sapere chi l'ha fatto, capito? Il semplice motivo è che non si deve sentire debito con nessuno. Invece se lo sa, se sente un debito, dice questa mi ha aiutato, la devo aiutare anch'io quando ha bisogno, cosa, capito? Secondo me hai ragione, non stavo pensando male io. In effetti sì, perché diciamo, chi fa del bene e poi dice di averlo fatto, si sta vantando, lo fa solo per vantarsi che ha fatto qualcosa. Hai ragione. Perché è così. Quando fa del bene non deve mai farsi pubblicità, deve sentirsi solo appagato per quello che ha fatto. È ricco di spirito dentro. Chiappa. Beh, logico, se uno fa del bene deve farlo e basta. Anche se uno fa certe cose e salva una persona e cose, secondo me non si dovrebbe far vedere. Mi ha fatto del bene e basta. Quello è un po' diverso, perché a me mi è capitato di salvare delle persone e poi di andare a trovarle perché tenevo. Dire una ragazza che ha avuto un incidente, l'hanno tamponata, l'ho fatto uscire fuori strada, c'è sceso un burrone e cosa. Abbiamo tanto noi, stavano andando a ballare, stavano andando a prendere un'amica per andare a ballare, tutta ben vestita, tutto là. Questo qui l'ha tamponata e l'ha fatta fare in un dirupo, che era pieno di ruffi. Tu devi immaginarti come abbiamo fatto a caricarlo, la macchina era capotata e sopra c'erano tutti i ruffi dentro, perché c'è uscita sotto il ruffo. È stato un casino toglierla perché era capotata di lato, eccetera, eccetera. L'abbiamo tolta, siamo riusciti a togliere, l'abbiamo portata all'ospedale e io ero dietro, non stavo guidando io, stavo guidando il mio collega. E tutto il viaggio ho cercato di tranquillizzarla, c'erano delle fratture, era tutta ben vestita, ti ripeto, una bella ragazza e cose, non per quello. Siamo andati a trovarla all'ospedale per dire, per vedere come stava, se era ripresa, eccetera, eccetera, ci abbiamo parlato. Lei mi ci ha ringraziato e cose, ma non sono andato per farmi ringraziare, però perché mi aveva colpito la vita. Beh, no. L'importante è che le stia bene. Quel ringraziamento è... cioè, che le stia bene, basta. Ah, e quando... Cioè, quando fa quel tipo di servizio, ogni persona che tu salvi, che aiuti, che fai, spiritualmente ti libera, ti senti soddisfatto, non so come spiegarti, è solo una sensazione che devi provare per capirti. Beh, logicamente che sì, è fatto dal bene a una persona, guarda, è meglio che sia così. Beh, ombra di dubbio, io mestiere, lo sai cosa faccio, quindi faccio le cose neanche alla Caritas. Quando vado c'è mondo, c'è, quando io vado a portare la roba alla Caritas, perché loro fanno la spesa da noi per darla ai poveri, capito? Andate a vedere cosa c'è di gente. Già lo so già. È un bel niente che può fare a capire. Ma che avevi il mezzo a portare la merce, immagina. Molti si vergognano anche andare lì a chiedere il fatto. Eh, sia invece che magari ne ha meno bisogno e ci va coltanto di faccia apposta. Allora. No, ammetto, non dai chiuso, andavamo ai pacchi, anche lì a latte dolce. Se non stavi attento, ti giravi 5 minuti, ti rubavano un altro pacco, perché era già fatta in busta. No? Allora, non me l'ammetto più dove. Perché dall'unice ci davano questa lacce, ci davano queste mortadelle che le tiravi a terra e rimbalzavano. Era mortadella così. Formaggi, mortadella, latte, di tutto ci davano. Il latte è quasi quando è una scadenza. Ciao. Ho bevuto, non era male quella roba. Latte. No, quello era un aiutice che ci davano, che però dovevi pagare il camion per portarli, un sacco di cose, era vivo, conveniva andare a comprarvi la roba. Ci ha pagato. Tutti è troppo. Poi quando siamo andati nell'altra sede, Giancarlo ha detto qui non ci abbiamo spazio, dove lo facciamo? Abbiamo fatto per un po' di anni, poi non l'abbiamo più fatto. Buttate era troppo casino a mettere la merce, perché per il camion a scaricare devi mettere la merce da qualche parte, se non hai rubi cosa fai? Non ci avevate nessun posto. No, tanto perché una è una sala operativa dove sono le radio, eccetera, eccetera. L'altra sono gli spogliatoi, il dormitorio, l'altro l'ufficio, dove cavolo te la metti la roba? Più che lasciarla fuori, ma fuori si guasta. No, non lo fa lasciare fuori, no? Il primo periodo la mettevamo dove c'era la sala operativa, poi hanno messo i divani, questo e quell'altro non ci sta più nulla. Che ha pagato, così è. Poi la portavamo anche nelle case, quindi la gente che non poteva venire prendevamo le robe e la portavamo a casa. Vabbè, allora era così, era. Beh, mi sa che è giunta l'ora già. Ti saluto, buona notte, smacciaccio. E ho trabocco per domani, dai. Ci sentiamo. E gappa. E già, è giunta l'ora perché no, deve venire a riposare, no, sono fatto troppo casino. Ciao ciao, buonanotte già, e buonanotte a tutti gli ascoltoni, ciao ciao. Se ne fa tutto in 144. Sì, ciao ciao, buonanotte.